whatever you choose, whatever you do. It's a long time since I met you, girl, but still, are you ready for some action, bro? Still playing the same old fucking thing. I told you I need some new blood from you. I'm tired of telling you how to fucking do things. Opencast Alpha, puntata spumeggiante, puntata partita con questa musica tamarra di cui io non mi assumo la responsabilità. Chi è che l'ha portata? Tu. No, non l'ho portata io. Giurin giuretto, questa musica non è mia. Mio il tavolo, mie le sedie, mio il cane. Viene da Jamendo come tutte. Allora ok. Jamendo. Puntata di musica metal stasera. Che cacchio. Vabbè, comunque io devo dire puntata numero 36. 26. 36. Ci siamo. Notizie di oggi. Programmi appena usciti. LibreOffice. Altre cose? Cos'è saltato fuori? Django, una nuova versione. Django? Django, ma è il film che c'è al cinema. Sì, Django. Con la dimuta. No, il framework web. Okay. Altre rogne? Altre rogne che ci siamo portati? Non so, il nuovo sistema operativo di Mozilla, Mozilla OS. Hanno annunciato, a tal proposito, la Alcatel ha annunciato che chi? Uscirà un Alcatel. Ah! Quella che faceva i modem di tanti anni fa. Avevo capito Alcatraz. No, Alcatel. Ha dichiarato che faranno un telefonino con Firefox OS. Uscirà nei paesi, ovviamente, quelli in cui è stato annunciato per primo lancio, tipo Angola, Venezuela, Patagonia, Colombia, Papua Nuova Guinea e Burundi. Paesi del terzo mondo. Del terzo mondo. Italia, quindi sì. Appunto, infatti. No, Italia l'ha tirata fuori perché non abbiamo abbastanza soldi. Quarto mondo. Sì, ok. E il telefonino, la bella notizia è che costerà sotto i $100, hanno dichiarato. Sì, sì, sì. La cosa bella di questo sistema operativo è che sarà talmente leggero che funzionerà anche su hardware non troppo esigente, per cui il costo sarà molto contenuto. C'è chi però pensa al contrario. Hanno detto, sì, bello, tutto in HTML5, geniale. Anche il sistema, anche parti del sistema, cioè è tutto quello che... Insomma, chi molta gente frega. Non piace sta cosa. Dicono che ma sarà lento sono come la morte. Gelosi. Dici, eh? Cioè, alla fine deve fare due cose sto cavolo di telefono. Telefonare mandare i messaggi. E le foto nudo. Foto nudo. Non ho capito perché nudo. Vabbè. Ma allora perché non usare un telefono più semplice, uno stupidofono? Ma no, perché questo qui... Perché non fa le foto nudo? Ha un sistema operativo libero, liberissimo. Liberissimo di acquistare le tue app sul loro market, principalmente. Mandare le foto nudo. Ancora con queste storie delle foto che nudo. Che è un po' l'obiettivo per cui stiamo perdendo Firefox OS. Vabbè, comunque, a parte Firefox OS, avevamo detto LibreOffice. È uscita la nuova versione, la 4.01, e la cosa carina è che è stata presentata anche l'applicazione per Android per gestire Impress. È un'applicazione che già troverete sul Google Marketplace Store, e sta partendo anche il trasbordo di LibreOffice su Android. Stanno lavorando al Make, ci sono già i JIT con su LibreOffice per Android, è in fase stra mega pre-alpha, per cui aspettate a provarlo. Potrebbe esplodere. Come minimo potrebbe esplodere. Dimmi, qualche altra notizia? No, è che ci sono delle presenze in audio che tu non senti, ma sono interessanti. Poi vi spiego. A volte sparano un po' così, però. Poi vi spiego che siete dei bastardi, eh. Va bene. Vai con la notizia seria. Vai pure. Sempre a proposito di ultime novità, se non vengono aggiunti effetti audio stupidi. No. Hanno annunciato la disponibilità di un'immagine di Debian / Ubuntu per architettura ARM 64 bit. I processori ancora non esistono. No, scusami, dove la faccio girare io sta roba? Su QEMU. Che cacchio. Il processore non esiste, ma ovviamente Linaro si sta portando avanti per essere pronti ad avere Linux funzionante appena saranno disponibili i 64 bit. Che non ci sono. Che ci saranno a tempi relativamente brevi. Mi sembra come la storia degli astronauti che si preparano in piscina. Quanto è relativamente brevi? 7 anni. Non ne ho idea. Mesi, credo. Anni. Mesi. Per avere il processore. Poi con calma il poi resto. Con calma. Comunque saranno anche cose che probabilmente puntano al mercato dei server. Quindi scordatevele. In pratica sta arrivando un sistema operativo per processori che non ci sono, per usi che non ne faremo. Però sono fighi. Diciamo è che è come il nuovo UEFI. Per no, esempio. No, quello ci sì. tocca. Quello è bruttissimo. Mi è capitato di lavorarci l'altro giorno e quando ho impostato avvia il computer da CD-ROM e non c'era dentro un CD-ROM avviabile, io ho detto vabbè, partirà dal secondo dispositivo. No, si è piantato tutto. Poi io non so se è un problema di UEFI o di Asus, come cacchio ha fatto il suo UEFI, però veramente una schifezza, una bro. Già quando io vedo un mouse in un BIOS mi viene l'ansia, mi viene il magone. Sì, è brutta. Il mouse in un BIOS? Sì. Ma non ha l'interfaccia touch? Ma no, per fortuna no. Perché? Non sta dicendo niente. Bene, dica bene. Qualcosa, uomo che non dice nulla. Non ho capito, se non dico qualcosa io stiamo qua a guardarci addosso. No, mi preoccupa la cosa, perché dico, sei malato? Sì. Vuoi un evacu? No, è meglio di no. Volevo divertirmi io. Aspetta che facciamo partire il sistema, va? Mi sembra un po' datato questo. Sistema. È l'ultima versione. Sì, è l'ultima versione di 10 anni fa. Me l'hanno garantita. Va bene, allora. Te l'ha garantito un tizio che agitava le braccia, aveva la camicia a quadri e faceva che rimanevano fermi mentre lui si agitava? Sì. Ho capito. Era una versione precedentemente amata. Una versione. Va bene. Direi, avevi altre cose da dire? Certo, una notizia bellissima. Perché se no mettiamo su un pezzo che hanno portato loro. Allora che facciamo. Ti piace. Mettiamo un pezzo. Beh, quasi quasi andrei avanti con le notizie. Niente. Ma mi sono dimenticato. Non abbiamo. Oggi è l'angolo della ricetta. No. Abbiamo fatto la pasta al ragù. Prendete il ragù. Prendete il ragù. E abbiamo anche scoperto come si montano i caravan. Attenzione, prima stavamo guardando una trasmissione. Ma potremmo andare col pezzo. Come si montano i caravan. Sostanzialmente prendete. Anzi, le roulotte. Prendete un caravan. Staccate la parte davanti, la carro. Good morning, Buenos Aires! Yes, buenas tardes, buenas noches. Arriba! Yeah, we're going to record the Stemian Plug concert, which will be released in 2007. Para aquí, gracias. Yeah, maybe you won't be dead, but what the fuck, you will be remembered forever for this concert! This is our first song for tonight, and it's taken from our first album, A Dig at the Races. Oh, ma bella, eh? E il ritmo che fa. Questo potevamo mandarlo. Non lo so mica. Open Cast Alpha, anche questa musica veramente Wolf fenomenale. Edition. Wolf Edition, thank you, grazie, prego, prego, prego. Non vi chiamiamo più però, eh. Grazie. Open Cast Alpha, il podcast tecnologico del gruppo Linux di Como. Siamo ci trovate sul www, estremamente, a parte questa musica, ci trovate sul www.gl-como.it, ci trovate da qualche parte, giù a Como. Ci troverete alla Fiera dell'Elettronica a Erba il 13 e 14 aprile. Venite a trovarci. Vi daremo dei gadget. Un cane. Ci sarà in anteprima il cartonato dell'uomo dal Giappone. Ok. E ci sarà anche... Robot. Ci sarà bene. Anche Italian Spider-Man. No, hai rotto tu qualcosa. No, si è rotto. Si è rotto, vabbè. Dai, parliamo di cose serie. Allora, multa di Microsoft. Multa. Multa. È stata rimultata perché si sono accorti che che Microsoft dà la possibilità di scegliere il browser dopo averti fatto installare Internet Explorer. Esatto. E se tu hai installato un altro browser, non si accorge che tu hai installato un altro browser e ti chiede lo stesso: vuoi scaricare un altro browser? Ce l'ho già. Ma ce l'ho già. Non c'è il bottone, ce l'ho già. Vabbè. Non vedo il problema, però, cioè, se te lo fa scaricare. No, no, infatti. Cioè, un conto è se non te lo faceva scaricare. Peccato che su Windows Vista. Famoso ballot screen. Su lo Windows schermo Vista, delle palle. Sì. Non te lo faceva fare. Cioè, non ti fa scegliere. Non ti face... No, non te lo faceva scaricare. Perché ce l'avevi già. Per un casino di utenti. No, no, no, no. Per un casino di utenti di Windows Vista. Con mi pare il Service Pack 1. Ma sai cos'è stato? Era disattivato. Era una svista. Estremamente. Windows Vista era una svista. Come Windows 8, che adesso hanno di cui adesso hanno abbassato il prezzo. Ma sai perché? 8 il passerotto. Hanno fatto un casotto. Un casotto. Comunque hanno abbassato il prezzo. Adesso si dice che la versione per produttori di computer costi più o meno 70-80 dollari. Ma a me mi hanno detto che tipo all'iper lo puoi trovare nei fustoni del Dixon, ma solo se lo compri senza il Dixon. Ah. Sì, perché è la versione OM, ok? Ricordatelo. E poi, soprattutto, non puoi trasferirlo su un altro fustino. Ah, su un'altra okay? lavatrice. Su un'altra lavatrice. Non usarlo nella lavastoviglie, potresti fare dei danni. Windows 8. Posso usarlo con i delicati? No. Se lo conosci, lo eviti. Con i delicati di stomaco. Esatto. Posso rimettermi a parlare di software libero? Sì. No. Sì? Sì. Il progetto PyPy celebra il 10° compleanno. Il progetto chi? PyPy è un PyPy? Interprete. È una roba cinese. È un interprete Python scritto in Python. Eh? Progetti in Python. Dobbiamo andare che più a fondo. Al momento è un Python in Python. È un Python in una versione minimale di Python. Ma che al momento sta anche avendo ottimi risultati nella compilazione just in time, al punto da risultare più veloce di Python. Dell'interprete di Python scritto in C. Cioè, allora, interprete Python scritto in Python, eseguito da Python. Python. No. Che segue il codice Python più veloce dell'interprete Python. Interpreta l'interprete. Dell'interprete. La teoria del complotto dietro a tutto questo è colpa di Python. Che dice che ci sia un motivo per cui riescono a funzionare così rapidamente. Perché la fase di compilazione del Python in Python code è molto lenta. Ed è così lenta perché in realtà durante questa fase viene messo da parte del tempo che poi viene usato per accelerare l'esecuzione. Ci sono degli slip. Ma che rogna no, del codice. Ogni 10 righe c'è uno slip. La tecnologia usata si chiama time shifter. È una cosa di viaggi nel tempo. Torna indietro nel esatto. tempo col tuo Python. Non sono sicuro di aver capito questa cosa. Ma non sono che neanche stasera sicuro non sono di però volerlo capire, devo dire la verità. Potrei fare un disegnino? No, forse vuoi farci vedere una diapositiva? Diapositiva? Vediamo la diapositiva. La diapositiva? Bellissima, la diapositiva perfetta. Devo dire la verità, all'inizio era meno chiaro, ma poi... Non è chiaro? Aspetta. Perfetto. Perfetto. Perfettissima, adesso guarda veramente. Anzi... Volete che ve lo spiego? Direi di no. News? Ah, c'è una news. Me lo dici? Vuoi la parola? Sì. Ah, vuoi dire una news? Abbiamo una news. No, è una bella news, immagino. Sapete che il client Steam... No, era solo per far sapere che siamo qua in 5 con 3 microfoni. Per cui bisogna chiedere la parola per avere... Vuoi il microfono? Sì. Mi spiace, c'è prima... Piace. No, va bene, vai. No, niente, la news riguarda i gamer in questo caso, e i gamer su Ubuntu in particolare. Sapete che il client Steam per Linux, che è stato rilasciato da poco, sta già facendo il 2% di tutti i download totali su Steam? Sì, ma non è solo Ubuntu. e Ubuntu. Non è solo Ubuntu, perché sono uscite le classifiche e anche quelli con Linux 64 bit generico, vario ed eventuale, è più che raddoppiato. Sì, sì. Dopo vediamo le classifiche. Che alla cazzo. Fine vediamo Gentoo anche le classifiche. Che punto è? Potrebbe essere stata Gentoo. C'è un utente Gentoo con la versione 64 bit. Era scaricato 27.000 volte. Sì, no, ma qui fanno i controlli anche sull'IP. Devo staccare il modem. Per quello ci hai messo tanto. Sì, sì, sì, sì. Ma sì, poi sì. Non riesce a scaricarlo 27.000 volte perché ogni volta deve ricompilare. Cazzo. È un binario, stupidino. Carogne. Il treno? È partito. Capisco. Stavi dicendo? Cioè, avevi altro da dovevi aggiungere? Dovevi dire altro? No, vabbè. Ma perché continui a dargli il microfono? Perché se lo vuole tenere per lui, allora... No, non capisco adesso... perché a lui lo date. Ecco, si è offeso. Ecco. Me l'ha anche spento. Adesso chi è che ci fa la classifica di distrovoci? Vabbè, te la faccio io, non è un problema. Allora, al primo posto c'è Gentoo, sì. Seguita proprio da un... proprio non un ci credo. È vero, cioè, ho controllato io, cioè, non mi credi. Allora, parliamo di altre cose. Sì, dunque vediamo, ho installato vediamo. KDE4. Ma allora, tu sei l'uomo che trova bello GNOME 3. Partiamo da questo. Allora, ci sei te, quello che l'ha scritto, che si è incazzato e adesso usa Mac, ok? Ma ho installato KDE4. No, ho capito, ma tu usi GNOME, quindi non no, vale. Uso KDE4. Adesso usi solo KDE4. L'ho installato con tutto lo spazio che occupa. L'hai acceso il computer dopo che l'hai installato? Sì, un paio di volte. Sì. Un paio di volte? Sì, ma non è che posso proprio esagerare. Non ti credo, ma com'è? E c'è tutte queste icone che poi dopo le finestre che fanno poi c'è il menu che fa la ricerca, poi c'è ma ti vengono fuori un sacco non di le ricerche farmaceutiche o quelle su Amazon come su no. su Ubuntu no, però non mi piace, allora non mi piace. No. Se io cerco non so pork Viene fuori K-Pork, che è un'applicazione per calcolare quanto tempo una fetta di pancetta deve stare sulla piastra. Potrebbe essere. Esatto. Perché più o meno ha KDE è installato totale, ha un'applicazione per bene o male qualsiasi cosa. Ma è pesante. No, non è grosso. Cioè, non è pesante. È grosso. È grosso nel senso che c'è un sacco di cose. Cioè, c'è tutta la suite d'ufficio e quella... dice groupware sì, per gestire calendari. C'è ancora il programma per fare il tè? Dovrebbe esserci ancora KT timer. Com'è che KT timer? La cosa bella è che è molto facile cercare programmi. Voi cercate quello che volete fare, che ne con so, la K bathroom, K bathroom. Sicuramente un programma che è un programma per che misura la media del tempo che passate in bagno. Quindi c'è un mega bottone che appare, tu schiacci, vai in bagno, torni e lo rischiacci. Sì. No, e il bottone è controllato con un Arduino? Sì. Probabilmente no. Sì. K-Bathroom, K-Arduino, prova cerca e ci sarà sicuro. Prova K-Cerca. K-Cerca. Allora. K-Search. Va bene. Comunque era solo per rendervi edotti di questa cosa. E come ti trovi? Ti trovi bene? Ma sono lì al computer. Ma guarda, io sto ancora usando mi trovo K bene. Mi io K trovo K bene. Io sto ancora usando GNOME 2.32. E perché non vuoi? Perché se aggiornare GNOME sul tuo, che è un Gentoo, ti ci vorrà tipo un mese e no, mezzo. No, ma c'ho paura, devo dire la verità. C'ho paura. Comunque volevo darvi la notizia che se vi chiedete come vi trovate su KDE e non lo sapete, c'è il programma Come mi trovo con KDE. Ti trovo, Cacchio vuoi anche. Cioè, ti trovi. Cacchio vuoi. Che vuol dire appunto come ti trovi. Va bene. Avevi altro da aggiungere? Roba interessante? No. Va bene. Niente. Abbiamo... Vogliamo parlare della piccola defiance che Repubblica in data... In data oggi, ieri, 6 marzo 2013, 6 marzo. La cosa divertente di Repubblica. Io non ve lo dico che oggi è il 15 aprile. Eh? Sì, ma fa niente. Tanto questa puntata la metteremo online tipo a ad agosto. Ottobre. Ah, ma pensavo ad agosto. No, la cosa divertente di Repubblica che ha questa sezione tecnica. Scienze e tecnologie. Scienze e tecnologie, dove è divertente leggerlo solo per le cagate che scrivo. Io avrei detto cagate. Vedete, c'è un articolo sugli attacchi hacker che sta subendo la NASA. No. Vabbè, I marziani. Sono parlano stati marziani. Di cinesi. Oh, marziani, cinesi probabile. Marziani. E la frase finale è che nell'anno fiscale 2011 ci sono stati 47 incidenti all'APT, Advanced Packaging Tool, il gestore standard di pacchetti software della distribuzione GNU Linux Debian. Cioè, mi hanno attaccato Debian? No, APT. Abbiamo notato una cosa, che se si va su Wikipedia italiana, sì, la pagina di APT inizia con APT, quello di Debian, e poi ci sono gli altri significati. Ma loro, cioè, nel senso, c'è stato un attacco alla NASA. Sì, la notizia che, originale. Che già uno si immagina marziani, infatti, cose del genere, raggi poi, laser. Soprattutto, perché c'è un programma di APT di gestore pacchetti Debian alla Wikipedia, NASA? Che poi italiana. Traduzioni dalle notizie originali, okay, in inglese. Okay, che poi comunque, cioè, neanche senza Google Translate, proprio. No, Wikipedia inglese dava la risposta giusta. Dava la cacchio. Così. Comunque è abbastanza inverosimile un attacco alla NASA. Alla NASA. Perché lo sanno tutti che un eventuale attacco dallo spazio colpirà il Giappone. Il Giappone. Perché? Giusto. Giusto. Hanno così fatto dei film. Hanno c'hanno fatto i robottoni loro. Infatti. Giusto. Giusto. L'uomo del Giappone è impegnato a scrivere. Non lo so, però anche ci vuole. Se c'è non ci vuole un'ipotesi confermare. Che dice che in realtà quei film siano una copertura, in realtà i veri attacchi saranno in Italia centrale, sugli Appennini. Centrale. Ah, cioè, facevano passare il Giappone, cioè l'Italia centrale, per il Giappone. Esatto. C'erano in giro tutti questi pastori degli Appennini, la transumanza, esatto, che transumavano le pecore. Sono arrivati gli alieni con le mollette sull'angolo degli occhi per tirarsi di fuori. No, in è Giappone. Che i film, i cartoni animati sono fatti con delle controfigure. Controfigure. Con controfigure, con dei cartoni, dei cartonati, esatto. E torniamo ancora. Esatto. Ma allora, quindi APT non era il gestore dei pacchetti, non era il gestore. E cos'era? APT sarà stato un roba era della NASA. Advanced Persistent Threat. Cioè minaccia avanzata persistente. Cioè, c'è stato un attacco alla minaccia persistente avanzata. Io un pochino mi preoccuperei, cioè, ma infatti la notizia originale che era del tipo APT, non un attacco a APT. Però ecco. Vabbè, questo è un dettaglio che si sono persi. Io mi immaginavo già Debian tutta preoccupata. C'è stato un attacco del tipo pericolo avanzato io continuo a preoccuparmi, cioè. Vabbè, comunque la notizia adesso è stata cambiata. Io sono preoccupato. Sistemata no, cambiata sì. Sarà stata migliorata. È stata così. Hanno tolto il riferimento a Debian. Ok. Così. Il gestore dei pacchetti. Dei pacchetti. Va bene. A questo punto, visto che ormai abbiamo raggiunto i canonici 30 minuti, ma abbiamo messo solo due pezzi. È normale. Che cacchio. Direi, cioè, che non sceglierete mai più la musica. Chiederei all'uomo del Giappone se è pronto per deliziarci della con classifica cosa? Di Distrowatch. Se c'è qualcosa interessante da dire. C'è qualcosa interessante da dire? C'è sempre qualcosa interessante da dire. Ma vuoi dirlo? Se non vuoi dirlo, non dirlo. Se no andiamo avanti, facciamo l'importante qualcosa. È che vuoi tu dirlo? Non gli facciamo dia dirlo. Il mettiamo microfono. Mettiamo la sigla? No, mettiamo la sigla. Scegli tu. Mettiamo la sigla, va bene, mettiamo la sigla. Come vuoi tu. Quella finale. Metti quella finale. Quella finale è finita. Metti quella finale. E va bene, allora. Ascolta un cretino. Signore e signori, l'angolo di Distrowatch. Sentivo la musichetta, quindi ero un po' impanicato. Comunque, buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'angolo di Distrowatch. Se però mi fai l'angolo di Distrowatch così, invece della base così un po' techno, ti metto sotto, che so, un quartetto d'archi, due scoregge. Buonasera, benvenuti all'angolo di DistroWatch, dove potremo ascoltare tra l'altro, va bene. Allora, dicevamo, non farmi perdere il filo del discorso, cazzo. Non si può dire. Metti un beep dopo, beh, bippamelo. Non può dire discorso. Non si può dire, bippa bippa. Comunque, arriviamo a noi. Cos'è uscito? Le solite cose. C'è sempre uscita una nuova SUSE, perché sennò Open SUSE, ovviamente, perché sennò non sono contenti. Quanto la fanno? Ogni quanto ne esce una, più o meno? Ogni tot. È come il pesce. Ogni 18 ore saline. Ogni 3 giorni puzza. Esatto. E poi è uscita interessante la beta 2 di Cubes OS. Cubes OS. E che cos'è? È una Fedora based Linux distribution a forma di cubo. No, è quella che praticamente ha come concetto principale la sicurezza isolando i programmi. È quella che fa le virtual machine per ogni cosa. Per ogni roba. Sì, è veramente una cosa molto interessante. È una cosa molto interessante, ma a livello pratico a me sembra un po' stramba. E invece funziona veramente bene, dovresti provarla. Perché? E tra l'altro c'è anche KDE 4.9 per il nostro amico, ecco, che oramai è diventato KDEiano. Poi cos'è uscito? Sono uscite un po' di un paio di release di Parted Magic, così ne ha buttate fuori un paio. Pappy Linux. Pappy Linux sempre a grandi e piccini. Ma Trinity? Questa bellissima distribuzione è bellissima. È bellissima. Non è uscita. Però è uscita da il nostro amico Roberto Donert. Anna Montana. Anna non Montana, c'è più. Non c'è più. Non pervenuta. È uscito OS 4. OS. Che è quella di. OS 4. Ma perché? Ma è il seguito di S2. Assolutamente, sì, sì. E aspettano. C'è già Apple che si frega le mani e dicono tra poco passeranno la 9. Così arrivano alla denuncia. Sono lì apposta per quello. E vabbè. Poi è uscito. Ah, attenzione, questo per la gioia di dell'uomo che sta qua di fianco. È uscito Linux from scratch 7.3. Che fortuna. Che sostanzialmente è praticamente Gentoo più lento a compilare. Devi compilare anche le cose per compilare. Bellissimo. Sei questo anche su Gentoo? Sì, ma, sì, ma qui, no. Qui di più. Cioè, qui ti rompe sistematicamente. Ogni volta che aggiorni qualcosa si rompe tutto. Comunque. Ma anche su Gentoo. Quindi vabbè, dettagli. Smettetela. No, comunque provate Dist CC. È cosa, bellissimo. Si mangia. È un programmino fatto per Gentoo che permette di fare la compilazione distribuita. Ah, per cui se avete delle macchine con dei processori che se la grattano, non è fatto per Gentoo. Sì, però per Gentoo gira bene. Beh, è uscita anche un'altra cosa. Ma c'è anche in Debian. Aspetta. Simpatici, eh? Sì. Per tutti i fanatici di Enlightenment, no. Che ricordiamo adesso essere. No, è una. Sei solo te. Cosa? Sì, è carino. È apprezzabile. È luccicoso, ma fuffoso. È leggero. Sì. È plasticoso. Vabbè, comunque. Fino ad oggi la distribuzione di riferimento era diventata. È come la pellicola in finto carbonio, più o meno. No, è bello. È come la pellicola in finto carbonio. Insomma, la distribuzione di riferimento era Body Linux. Che Body Linux, essere, la tua. Tra l'altro, no, non è la mia distribuzione. La tua. Ma, come ti chiami? Signor Body? Come classifica Body Linux? Sarà sopra Gentoo. Non è vero. Sopra Gentoo. Come fai a essere sopra il primo? Ecco. Comunque è uscita un'altra distribuzione che monta Enlightenment. O Enlightenment o LXDE. Che si chiama Sparky Linux. Come icona c'ha tipo una motosega, una cosa simile. Fico! Una sega rotante, qualcosa di simile. Lama rotante! Lama rotante. E non è una alabardo mossa. Spaziale! Lama rotante è pericoloso perché si inizia anche a sputare mentre gira e... Attenzione. Ma perché le capisco dopo? Le capisco solo quando mi riascolto in streaming. Comunque Gentoo è 31esimo. Vabbè, ma perché abbiamo avuto problemi questa settimana, però ci rifaremo settimana prossima. Attenzione. Nel senso che eri occupato e non potevi non cliccare su Gentoo. Scaricalo. Classifica. Facciamo la top 10. Adesso, ladies and gentlemen, la top 10 di DistroWatch. Sì, vabbè. Oggi la top 10 andrà in edizione ridotta perché non abbiamo tempo, quindi terzo posto Ubuntu, secondo posto Mageia, primo posto Mint, arrivederci alla prossima settimana, ciao! E ma è Gentoo? Gentoo è 31esima. E hanno montato Linux? Hanno montato Linux è al posto 0 perché è menzione d'onore. È in testa. sopra. Irraggiungibile. Irraggiungibile. Over the top. E al quarto posto chi c'è? Al quarto posto. Ma allora, abbiamo detto, vabbè, che la facciamo la prima, dai. Versione ridotta. Pronti, 1, 2, 3, Mint, Mageia, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Arc, PC, Linux OS, Zorin, Snowlin. Cioè... c'è Zorin. Zorin è davanti a Gentoo. Io veramente... c'è anche Mangiaro Linux. Allora, io... se questo era il tuo ancora dubbio. Devo capire come questi qui facciano una classifica. C'è l'accento però, è Mangiaro. Mangiaro. Sarà francese. Mangiaro. No, il punto è che chiusa Gentoo è talmente impegnata a ricompilare non che non ha tempo di andare sul sito di... usa Wget di solito. Non ha un mouse. Allora, ce ne andiamo o no? Ce ne andiamo. Ciao. Cioè, mi piace perché sei portato a fare le chiusure proprio. Così. Guarda che ho fatto finisce dei corsi. Ciao. Fumando, un declino dorato così. Ce lo dirà il narghilè, lo accendo. Declino di sicuro. Declino sì, dorato non lo so. Matanea a tutti. Molto giapponese. Giapponese. Molto giapponese, ma in calabrese. Matanea. Arrivederci. Matanea. Cioè, tipo... ci vediamo. Bella lì. Su questa bella, arrivano gli alieni. Shanti. Ok. Va bene. Con questo direi che possiamo chiudere. Vi ricordo ancora una volta www.gl-como.it dove trovate tutte le puntate di Opencast Alpha con i link alle cagate che abbiamo detto e alla musica bellissima che vi abbiamo fatto ascoltare. Mi sa che dovremmo creare delle pagine finte con extra, dentro sì. le nostre notizie. No. Le pagine di Lorem Ipsum tipo sì, per riempire con le notizie. niente, volevi dire qualcos'altro? Veniteci a trovare, punto. Sì, siamo in fiera dell'elettronica fiera. A Erba il 13 e 14 aprile. Ci trovate personalmente se volete darci, non so, dei delle soldi botte. O delle botte, noi siamo lì, se volete. Ma dei soldi è meglio. Soldi è meglio, così finanziate questa nostra spericolata avventura, perché abbiamo bisogno di comprarci. Se no, facciamo una cosa. Voi pagate. È necessario, dobbiamo comprare. Abbiamo deciso la macchina del GL Como. In realtà dobbiamo comprarci delle aste per i microfoni, ma questo è un altro discorso. O ma dei microfoni, per esempio. Ah, vabbè, ma fin qui ci arriviamo, sono le aste per i microfoni. La base radio del GL Como. È necessaria, eh. Vogliamo sottolineare come questa cosa usa sia necessaria. Solo benzina open. No, elettrica. Che cacchio la è? La Maserati elettrica facciamo. La Tesla del GL Como, quindi è per... la stiamo... ce la stampiamo in 3D. Per la scienza. Per la scienza. Per la scienza. Va bene, vi lasciamo con un ultimo pezzo, visto che questa puntata era all'insegna della musica rock cattiva, diciamo. E delle puttanate, quello vabbè. Quello tutte le puntate. Ormai. Vi abbiamo fatto ascoltare il primo pezzo, Get Ready to Rock, di El Paso Killers. Il secondo pezzo, Country Seekers of Steel. Dei Nano Wars che sono italiani, giusto? Sono italiani, sì. Un po' e... mi vergogno, devo dire la verità. Sì, cioè, veramente sono cose che non vuoi far sapere, no, in giro. Ce ne sono alcune strane, però. Sì. Ma mi piace che su un album c'hanno la traccia, una traccia Burger, l'altra traccia King. Li amo, basta. Abbiamo deciso che sarà il nostro gruppo di riferimento. Per cui la prossima puntata ve li faremo ascoltare ancora. Dal vivo, li portiamo qua direttamente a casa tua. Li rapiamo. A registrare. Vi lasciamo con l'ultimo pezzo dei Sexum 8. E non so come si pronuncia. 8, c'è delle sexy. K, delle H, delle cose. Z, una Z c'è. No. Però il pezzo si intitola 3 Blocks. Che c'è la Z? No. Che cazzo.